giornale radio del Friuli Venezia Giulia. I comuni potrebbero assumere 2.500 dipendenti, ma i concorsi ci sono solo interinali o interni. Furti su commissione in ospedale, nella destra tagliamento, sparite sonde ecografiche per 120.000 euro. 20.000 euro tra contanti e gioielli sottratti con l'inganno ad un'anziana di Gorizia, truffatore bloccato a Napoli. Tra pochi giorni pronte le linee guida della regione sul nodo delle concessioni balneari, l'annuncio in consiglio. Grado e Lignano mantengono la bandiera blu, riconoscimento anche a 13 marina turistici della regione. Dalla DAD alla maturità, ecco come ha vissuto la scuola che ha iniziato le superiori poco prima della pandemia. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Parliamo in apertura di questa edizione del giornale radio di pubblica amministrazione, di posti vacanti, in particolare nei comuni che non riescono a completare i propri organici. Il lavoro nella pubblica amministrazione non attrae e ai concorsi banditi ormai partecipa solo personale interno. Sentiamo in diretta Antonio Di Bartolomeo. I comuni del Friuli Venezia Giulia potrebbero assumere in tutto circa 2.500 lavoratori, ma non riescono, almeno in parte, a trovare il personale necessario. In maggiore difficoltà le amministrazioni locali più piccole che si trovano in zone più periferiche. Il dato emerge da una verifica costante avviata dalla Direzione Centrale Autonomie Locali e Personale della Regione. Un dato che risale al 2022, ma è il più recente a disposizione. Nulla fa pensare che nel 23 sia cambiata di molto la situazione. Capita sempre più frequentemente che dipendenti dei comuni abbandonino l'ente locale dopo aver vinto un concorso in regione. Nessuno può impedire loro di lasciare il comune a quel punto, anche se la mobilità non è più permessa. Concorsi che da tempo non erano così abituali come lo sono ora. Pesa la scarsa attrattività della pubblica amministrazione. Ai bandi regionali partecipano per lo più persone che o già sono dentro l'amministrazione come interinali oppure che lavorano appunto negli enti locali. Sono pochi i casi in cui qualcuno arriva dal privato, mentre si è ridotto anche il numero di residenti di altre regioni che tentano il concorso in Friuli Venezia Giulia. A dimostrazione di ciò, un sondaggio di SVG commissionato dalla regione attesta che per un giovane il pubblico impiego è chiaramente meno ambito per chi ha oltre 50 anni, di chi ha oltre 50 anni. In questo contesto l'assessore alle autonomie locali e al personale Pierpaolo Roberti ha annunciato che solo quando ci sarà il personale necessario si potrà procedere con il passaggio di nuove funzioni agli embrioni delle nuove province, gli EDR, che attualmente si occupano solo di edilizia scolastica e viabilità ex provinciale. Grazie ad Antonio Di Bartolomeo. Ora passiamo alla sanità. Ospedali di San Vito e di Pordenone, sonde degli ecografi rubate, due colpi a pochi giorni di distanza, uno dall'altro, e un bottino da oltre 100.000 euro. È il secondo furto in 10 giorni, dopo quello al reparto di ginecologia dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. Ieri l'amara sorpresa al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Le quattro sonde di un ecografo, macchinario nuovissimo appena acquistato dall'azienda sanitaria a servizio del reparto di medicina, sono sparite dal padiglione C dell'ospedale, valore 100.000 euro. Il furto risalirebbe al fine settimana tra venerdì e domenica, quando gli ambulatori sono chiusi. Ignoti si sarebbero introdotti in notte tempo nelle strutture, forzando la porta e portando via le sonde. E quello che più preoccupa, sapendo bene come muoversi e dove colpire, indaga la polizia, che dopo i rilievi in loco sta vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori del colpo. Furto del tutto analogo a quello dello scorso 3 maggio all'ospedale di San Vito al Tagliamento, dove sono state sottratte le sonde di un ecografo per un valore di 20.000 euro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: una persona è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto questa mattina dopo le 7 a Ialmico di Palmanova, lungo la strada che conduce a Visco. Due automobili si sono scontrate frontalmente per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri. Una donna di 50 anni è rimasta imprigionata nell'abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco. Stabilizzata sul posto, è stata elitrasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Il conducente dell'altra vettura è stato trasferito in ambulanza al locale pronto soccorso per ferite lievi. I carabinieri di Gorizia hanno arrestato il presunto autore di una truffa ai danni di un'anziana. L'uomo avrebbe utilizzato il metodo della finta cauzione, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri e poi inviando un complice a casa dell'anziana, che quel giorno compiva 82 anni. Si è fatto consegnare beni per 20.000 euro, di cui oltre 11.000 in contanti e il resto in gioielli, con il pretesto di pagare la liberazione su cauzione del figlio, che altrimenti, a loro dire, sarebbe stato portato in carcere per aver provocato un grave incidente. Accortasi di essere stata vittima di un raggiro, l'anziana ha chiamato il 112. I carabinieri, con le informazioni raccolte dall'anziana, hanno setacciato la zona, intercettando l'uomo a bordo di un treno sul quale stava facendo rientro nella sua città di provenienza. Monitorato dagli investigatori, con il supporto della Polizia Ferroviaria di Roma, giunto a destinazione a Casalnuovo di Napoli, ha trovato ad attendere i carabinieri, che lo hanno trovato in possesso del denaro contante e dei gioielli. Il quarantenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della conclusione delle indagini. E proseguono nell'area di Roveredo in Piano le ricerche dell'anziano scomparso dalla sera di domenica 12 maggio. Nelle operazioni sono impegnati i vigili del fuoco di Pordenone, che hanno allestito un posto di comando avanzato nel campo sportivo di Roveredo, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i volontari della protezione civile. Il nucleo sul falso documentale della Polizia Locale di Trieste, recentemente costituito e unico in regione, ha affiancato alcuni giorni fa il reparto motorizzato al bivio di Miramare e sulle rive per intercettare l'eventuale transito di traffico pesante in violazione al divieto imposto in entrambe le località. Sono state 15 le violazioni contestate, di cui 7 per transito di veicoli dal peso superiore a quello consentito. Le altre andavano dalla guida contromano al superamento della linea continua, alla mancanza di carta di qualificazione del conducente per la guida di auto articolati, alla mancanza di targhe e documenti regolamentari. In arrivo le linee guida sulle concessioni balneari. L'annuncio questa mattina in Consiglio regionale, sentiamo. È fissata per il 21 maggio l'ultima riunione della commissione tecnica che coinvolge la regione e i comuni rivieraschi, che deve stilare una serie di linee guida in base alle quali i comuni stessi potranno indire le gare di assegnazione delle concessioni balneari. La scadenza precisa è stata annunciata dall'assessore Callari, che ha risposto ad una interrogazione in materia del consigliere Dem Pozzo. Il documento verrà poi portato all'approvazione della giunta e servirà soprattutto a tutelare i comuni da eventuali contenziosi che dovessero nascere dopo l'assegnazione delle concessioni. Callari ha comunque ricordato che per la stagione in corso continueranno a valere quelle esistenti, grazie ad una proroga giustificata davanti all'autorità garante dalla necessità di riparare agli eventi atmosferici dello scorso anno, che hanno danneggiato pesantemente tutti i litorali della regione. Maggiore fonte di polemica durante il cosiddetto question time in aula è stata la Cimpellos Equals Gemona, con il consigliere Morettuzzo del Patto per l'Autonomia, che ha chiesto quale sia l'orientamento della giunta sul tracciato della nuova arteria. L'assessora Amirante ha difeso prima di tutto la necessità di realizzare il nuovo asse viario, spiegando che al momento siamo nella fase di uno studio di fattibilità sul quale la regione è pronta a confrontarsi con il territorio. Altro tema fonte di polemica, il progetto chiamato I Favolosi ONU 17, che prevede la realizzazione di un percorso di turismo culturale con installazioni artistiche basate sui 17 obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite. Il consigliere Dem Cosolini ha fatto notare come, a fronte di spese complessive già sostenute per quasi 230.000 euro, in 4 anni non esista ancora una lista di luoghi interessati né di artisti coinvolti. Bini ha risposto spiegando che il 4 di giugno si riunirà il comitato tecnico scientifico, che dovrà dare incarico formale agli artisti di elaborare le opere. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia mantiene le due bandiere blu di Grado e Lignano assegnate da Foundation for Environmental Education. La presentazione questa mattina a Roma nella sede del CNR, con il ministro per le politiche del mare Nello Musumeci. 236 le località rivierasche e 81 approdi turistici che potranno fregiarsi in Italia del riconoscimento della bandiera blu 2024. Detto delle due località balneari, gli approdi premiati sono 13 in regione. Si va dalla Lega Navale di Trieste a Porto San Vito e ad Arsena San Marco a Grado, al Marina Monfalcone e poi nei Friuli Marina 1, Marina Punta Verde, Punta Faro ed Arsena Porto Vecchio a Lignano, Marina Punta Gabbiani, Arsena e Marina Capo Nord ad Aprilia Marittima, cantieri Marina San Giorgio e Marina Sant'Andrea a San Giorgio di Nogaro. A Trieste è stato, erano iniziati lo scorso febbraio e sono da poco terminati i lavori di ripristino delle aree gioco e di quelle verdi della pineta di Barcola, sempre dopo i danni della mareggiata dello scorso autunno. 5 le aree gioco ristrutturate per un investimento di 180.000 euro con il supporto della Fondazione CR Trieste. Ne abbiamo parlato con l'assessore comunale alle politiche ambientali Michele Babuder. Sono state ristrutturate le 5 aree gioco della pineta di Barcola che erano state danneggiate dai danni del maltempo. L'amministrazione si è impegnata affinché queste aree potessero essere pronte per la bella stagione. Assolutamente sì, negli ultimi 2 mesi abbiamo provveduto alla realizzazione, alla riqualificazione di 5 aree gioco. 4 ex novo, una in realtà ristrutturata solo nella pavimentazione antitrauma, e la fondazione si è resa disponibile anche alla riqualificazione di ulteriori 4 aree verdi che quindi abbelliranno l'ingresso della passeggiata del lungomare Benedetto Croce e i 2 lati della fontana sufficientemente nota che c'è sulla riviera. Più o meno a quanto è ammontato l'investimento per i lavori? L'investimento della fondazione con un importo di oltre 220.000 euro. Il comune ha partecipato con i fondi della regione per la pulizia e l'asporto dei materiali che si erano accumulati in pineta con importi di indicativi 140.000 euro. Nel periodo ovviamente autunnale, quindi tra settembre e ottobre, l'amministrazione provvederà anche al rinforzo della scogliera a protezione della pineta e proprio ieri sono partiti gli ultimi lavori di ripavimentazione del lungomare Benedetto Croce con i cubetti in porfido. Ci saranno attivi all'incirca 5-6 topolini su? I topolini li segue il patrimonio e l'immobiliare, credo siano più di 5-6, sono indicativamente 7. Per quanto riguarda invece le porzioni che saranno interessate adesso dalla ripavimentazione in porfido, gli operai, le ditte e peraltro locali provvederanno solo a delimitare le aree che necessitano dell'intervento, per il resto il lungomare rimarrà fruibile. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Fissare principi base per indirizzare le politiche in materia di intelligenza artificiale è l'obiettivo della Carta di Trieste, presentata questa mattina. Nasce da Trieste, città della scienza, un manifesto per un utilizzo etico e deontologico dell'intelligenza artificiale nelle sue diverse applicazioni. È la Carta di Trieste, un documento nato su input dell'associazione culturale Studium Fidei, guidata dal teologo Don Ettore Malnati e realizzato da un comitato che ha riunito competenze trasversali, dalla medicina al giornalismo, dall'imprenditoria alle scienze sociali e giuridiche. Don Ettore Malnati. Noi vogliamo presentare semplicemente un sentiero, dal quale poi si può arrivare a una strada e un'autostrada. Non poniamo dei freni, non poniamo degli acceleratori, diciamo la situazione è così come noi possiamo, dal punto di vista deontologico, offrire una prospettiva. Sviluppata nel corso di diversi mesi, la Carta si sofferma sui rapporti tra intelligenza artificiale, tutela della salute, informazione, economia e guerra, partendo da un postulato fondamentale, la necessità di una legislazione internazionale che tuteli il rapporto subordinato dell'intelligenza artificiale alla razionalità dei soggetti umani nel rispetto della dignità della persona. Alessandro Tudor, avvocato. Le decisioni che vengono assunte dall'intelligenza artificiale devono essere controllabili per tutelare i diritti, per tutelare questi diritti all'interno di un sistema democratico. Andrea Bulgarelli, giornalista. Si sente parlare tanto di intelligenza artificiale, noi intendiamo porre dei principi che intendiamo diffondere al mondo politico anche alla luce del fatto che il governo italiano ha proprio approvato un decreto legge sull'intelligenza artificiale che farà ora un percorso parlamentare. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. E adesso conosciamo alcuni dei maturandi di quest'anno, ragazzi che hanno iniziato il loro percorso alle scuole superiori in epoca di pandemia e quindi con la didattica a distanza. Ragazzi chiusi in casa a fare scuola dal PC delle loro camerette, docenti nelle aule vuote che insegnano a distanza, indimenticabili gli anni di DAD, didattica a distanza. Chi in quel marzo 2020 aveva appena iniziato la scuola superiore, oggi sta per presentarsi gli esami di maturità. A Buongiorno Regione abbiamo invitato i protagonisti di questi anni così complessi, scegliendo quattro ragazzi di 18-19 anni del liceo Petrarca e dell'istituto Volta di Trieste. L'etichetta di generazione Covid che a loro è stata attribuita non piace. Possiamo dire di essere un po' più forti perché appunto ci siamo trovati a dover recuperare tante cose, a recuperare sia discipline che amicizie, poi relazioni umane. Indimenticabili le vacanze di carnevale del 2020, non finivano mai perché in quei giorni che il governo decise di chiudere le scuole. Avevamo appena iniziato la didattica a distanza e c'era un po' nell'aria il feeling che sarebbe stata una cosa temporanea, una cosa che sarebbe finita presto. Poi quando siamo arrivati a metà marzo, inizio aprile, ci siamo accorti che però qualcosa non andava e probabilmente avremmo continuato come poi effettivamente è accaduto. DAD, strumento emergenziale ma bocciato a lungo termine. La didattica a distanza non è un buon metodo di far scuola, non è paragonabile alla presenza, quindi può essere una cosa usata in extremis, ma non può essere, ecco, una soluzione ad ogni problema. Scuola e relazioni tra pari, tutto filtrato da uno schermo. Ne paghiamo le conseguenze, dicono i ragazzi, che si sono isolati e, ai pronto soccorso, parlano di boom di pazienti con attacchi di panico e disturbi del comportamento. Sicuramente abbiamo subito le conseguenze di tutto questo, anche se credo che la colpa non sia direttamente della pandemia, ma di ciò che la pandemia ha causato. Cioè l'isolamento, la quarantena, che ci ha fatto sentire tutti un po' più isolati e quindi soli. E questo ha avuto le sue conseguenze anche dal punto di vista dello stato della salute mentale. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. E siamo allo sport, il calcio, gol di Luka e Samardžić, 5 punti in 3 partite per l'Udinese che riemerge dalla zona retrocessione contro il Lecce, già salvo. Nel match di ieri i friulani prendono subito coraggio sprecando con Christensen in avvio. Prima dell'intervallo Luka con un colpo di testa inverte la rotta dei pareggi e trova il vantaggio. Nella ripresa Okoye ferma i tentativi del Lecce di andare in rete e nei minuti finali Samardžić porta i friulani sul 2-0 definitivo. L'Udinese scavalca le terzultime Empoli e Frosinone e regala a Cannavaro la sua prima vittoria da allenatore in Serie A. Sentiamo. Penso che alla fine le motivazioni hanno fatto la differenza. Mi è piaciuto che quando abbiamo iniziato a giocare sono venute fuori certe situazioni che avevamo provato. Mi è piaciuto che chi è subentrato ha fatto la sua parte. E significa che comunque i ragazzi ci tengono. Ora uno sguardo al meteo. Il cielo è da variabile, con nuvolosità variabile su pianura e costa, coperto in montagna. Le temperature registrate alle 11, a Trieste 19 gradi e mezzo, a Gorizia 12, a Udine 20, a Pordenone 19 gradi. A Tolmezzo 16 gradi, a Forni di Sopra 13 e mezzo, a Tarvisio 12, a Sappada 11 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo 10. Sul Monte Zoncolan 6 gradi e mezzo, sul Lussari 5, sulla costa Lignano e Grado 20 gradi. E ora le previsioni. Oggi pomeriggio cielo in genere nuvoloso, anche coperto sulla zona montana occidentale. Piogge sparse, in genere deboli, con possibilità di rovesci, specie sui monti, nel pomeriggio. Per domani cielo prevalentemente coperto ma con possibili schiarite verso la costa. Al mattino sulla zona montana possibili deboli piogge. Dal pomeriggio piogge in genere moderate, più abbondanti sul settore occidentale, con possibilità di rovesci anche temporaleschi. La cultura comincia il ciclo di conferenze organizzato da Dialoghi Europei per fare chiarezza quanto possibile intorno al caos delle relazioni internazionali. Il primo incontro al Circolo della Stampa di Trieste si intitola Ultime dal caos, guerra chiama guerra e inizia alle 17:30. A parlare Stefano Silvestri, già presidente dell'Istituto Affari Internazionali e tuttora suo consulente scientifico, Guglielmo Cevolin, professore di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Udine, coordinatore del Limes Club Pordenone Udine Venezia, Federico Donelli, associato di relazioni internazionali all'Università di Trieste. A Silvestri abbiamo chiesto quanto siano realistici i timori di una terza guerra mondiale. nell'attuale situazione ancora la dissuasione nucleare, la deterrenza nucleare regge, e quindi in quanto tale il rischio di una guerra globale generalizzata, pur non potendo essere mai escluso, però sembra essere molto molto basso. Però in compenso dobbiamo dire che la situazione internazionale è molto confusa e soprattutto presenta a continuazione nuovi rischi e nuove forme di conflitto, per cui anche senza una nuova guerra globale, che sarebbe totalmente distruttiva, abbiamo però sufficienti preoccupazioni di molte varie guerre che poi si collegano tra loro e che creano una grande quantità di problemi. E secondo lei qual è l'aspetto più preoccupante di queste guerre? Il quadro multilaterale, che dovrebbe aiutare a moderare i conflitti e a trovare degli accordi, è oggi profondamente in crisi e le Nazioni Unite vengono divise in vari partiti contrastanti, e poi soprattutto nel vecchio equilibrio che era quello dei due blocchi della guerra fredda, oppure diciamo comunque dell'equilibrio tra le grandi potenze che in qualche maniera parlano lo stesso linguaggio, parliamo delle cinque potenze con diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza, ma insomma soprattutto degli Stati Uniti, della Russia e della Cina, oggi non parlano più lo stesso linguaggio. E qual è secondo lei la chiave per risolvere almeno uno a una queste difficili situazioni? Bisognerà passare attraverso una progressiva ricostituzione di un clima di almeno parziale fiducia a livello internazionale. Per esempio è interessante che il G7, che si sta per aprire qui in Italia, è stato costretto, non aveva mai discusso quasi solo di ragioni di questioni di sicurezza. Questo G7, pur avendo molte cose all'ordine del giorno, in realtà è centrato sulle questioni di sicurezza e apre un dialogo con alcuni almeno dei paesi del cosiddetto sud globale. L'arte, la musica e il teatro arrivano in una delle zone più remote del territorio. Succederà di nuovo a giugno. Sentiamo. Stavoli, piccola frazione oggi disabitata del comune di Moggio Udinese, con la fama di borgo più isolato d'Italia, raggiungibile solo a piedi con una camminata di un'ora, si prepara ad accogliere tra il 13 e il 16 giugno la seconda edizione del festival che porta il suo nome, Isola di Stavoli, in un palcoscenico naturale che ospiterà spettacoli d'arte, musica, teatro e laboratori immersivi nella natura. Se lo scorso anno il progetto era nato come una scommessa, quest'anno si parla di una conferma con il riconoscimento e sostegno della Regione. Ad organizzarlo le associazioni Epone Dream e Amici di Stavoli, in un contesto montano unico, dove ogni attività si svolgerà in sintonia con il luogo, con l'obiettivo di stimolare la connessione tra l'uomo e l'ecosistema. Il programma 2024 sarà all'insegna della continuità con l'edizione zero. Tra le conferme il fisarmonicista Paolo Forte, il quintetto di musica tradizionale irlandese Green Waves e il trio organico, cui si affiancheranno artisti e performer regionali da tutta Italia per dar vita ad attività e laboratori, vero fiore all'occhiello del festival, cui si aggiungerà il progetto Risvegli, l'animazione artistica di alcune abitazioni del borgo. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti. L'arte della regione, protagonista a Bruxelles attraverso 6 mostre allestite all'Istituto Italiano di Cultura e all'Ufficio di Collegamento della Regione Friuli Venezia Giulia. La prima rassegna, che durerà fino al 31 luglio, si intitola L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo. Alla Casa delle Donne di Udine, in via Pratamano alle 18, intitolazione della stanza Guardare a Gina Morandini, studiosa e artista del tessile, in mostra le Madonne vestite a cura del gruppo Anna Akhmatova. Trieste ospita un appuntamento del Festival Internazionale di Poesia Palavra nel Mondo a cura dell'Associazione di Volontariato Poesia e Solidarietà. Il festival si svolge nel mese di maggio in oltre 800 località di 70 paesi del mondo. Oggi alle 17:30 alla Libreria Lovat, lettura corale di 15 autori. Marina Torossi presenta il suo libro Anatomia di un tramonto al Caffè San Marco di Trieste alle 18. Presentazione del libro dedicato al ciclista Fausto Coppi, 1953-2023, il mondiale a 70 anni di Roberto Fiorini e Claudio Pesci, alle 18, Culturni Dom di Gorizia. E sempre alle 18 alla Libreria Friuli di Udine, lo scrittore Cesare Civello presenterà il suo Storia di Roma dalla fondazione alla fine dell'Impero Romano. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale, alla parte tecnica Bruno Montevecchi e Caterina Cabrelli, in segreteria Valentina Veneruso. I prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia e il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo. L'informazione radiofonica torna invece su queste frequenze alle 15. E da Dario Ronzoni e Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.